Mino il creatore del balletto tattico. Siuma Mobus è fantastico. Gioca Roblox con un sorriso. Mentre ranca su Brawl Stars che spassa un paradiso. Con suo padre Napo insieme combattono nei mondi virtuali, forti si destreggiano, sua sorella Didi sempre accanto a lui, uniti come squadra, nessun avversario li distrugge. Mino il creatore del balletto tattico, Suma Mobus è fantastico, gioca Roblox con un sorriso, mentre racca su Brawl Stars che spazio è un paradiso. Con suo padre Napo insieme combattono nei mondi virtuali, forti si destreggiano, sua sorella